Un ben ritrovati, Radio Città Fujiko, 451 frammenti con sonori, in compagnia di Max Macchia, già su sonori, come dire, mi stavo per impantanare, no, non è vero. E, beh, bentornati ovviamente, un buon ascolto per chi insomma si approccia per la prima volta da queste parti di 451 frammenti sonori, spero poi in realtà insomma che abbiate già avuto modo di attraversare questi percorsi, magari perché amanti delle musiche sperimentali e delle musiche insomma che attraversano così anche in maniera iconoclasta, ma non solo, ma anche dialettica o in maniera così come punto e come di spunto rispetto a vari percorsi che appunto si possono creare dentro le musiche come linguaggio appunto globale, ma non solo, anche nei casi specifici poi in quelle che sono i generi, quindi anche una sorta di esplosione poi dei generi e delle degenerazioni appunto vari che comunque da queste parti, come dire, interessano sia il sottoscritto Max Macchia, che tra l'altro vi saluta, che insomma tutto un po' quello che si è creato in questi anni appunto come 451 frammenti sonori. Beh, in giornate che fanno tornare le distopie, non che non abbiano avuto successo in questi anni le distopie, visto la realtà che di fatto è distopica, solo che parlando insomma e soprattutto vedendo, facendosi prendere da quello che è uno dei momenti, degli eventi di questi ultimi giorni, beh, la distopia poetica, la distopia portata appunto al linguaggio artistico, quello di Blade Runner 2049 evidentemente in questo periodo, beh, non ci porta altro che su lidi che conosciamo e che andiamo a rivedere, forse questa revisione poi per molti aspetti del film, del suono che attraversa Zimmer come autore, compositore, anche piuttosto insomma interessato proprio a riprendere, come poi fa Villeneuve nel film, quella che è l'atmosfera di Blade Runner soundtrack, e anche appunto per quanto riguarda il visivo, appunto il Villeneuve che evidentemente è cresciuto come molti di noi, come un immaginario, uno dei più potenti di questi ultimi anni, con Blade Runner. Immaginario che si estende alle musiche. Questa sera non tratteremo direttamente di Blade Runner, ma evidentemente siamo Blade Running, come anche per molti versi. Questa sera più che altro andremo a trovare quello che è un altro immaginario potente della fantascienza, con una distopia che poi per alcuni aspetti, ecco lì il filmico veramente forse l'abbandoniamo, perché Guerra dei Mondi ha un finale in quasi tutte le versioni, forse in tutte, filmiche veramente tremendo, altro che distopico, con insomma anche un'accettazione e una, come dire, una rassegnazione poi che dal finale, che poi in realtà dentro il romanzo che corre per molti versi appunto un anticipo poi di quello che sarà il mondo distopico, fondamentalmente insomma è la spinta poi che porta verso un finale che, se vogliamo così rintracciare dentro il 2049 di Blade Runner, forse rallenta, ecco, quello che fu il Blade Runner, soprattutto il director cut o final cut, insomma, che vogliate, ecco, l'importante è che siano quelli di Ridley Scott e non quello con insomma con la loff, con appunto la chiacchiera, io la chiamo così, insomma, che viene fatta appunto per creare una sorta, insomma, di fascinazione anni 40, che insomma, sì, forse nell'82 poteva andare. Di certo non piacque a Ridley Scott, che non girò tra l'altro neanche finale, che andò insomma via prima delle scene, tanto da far recuperare alla produzione immagini scartate di Shining, poi con la battuta direi molto puntuale di Ridley Scott rispetto al finale non girato da lui, e con insomma anche un alleggerimento di tutta la distopia appunto che è presente dentro Blade Runner, ovvero i due che si vanno a sposare. Beh, probabilmente Ridley Scott aveva su serio ragione, in effetti il suo finale è decisamente diverso, ed è il finale poi tra l'altro che viene preso nel 2049 appunto per il sequel. Ma dentro appunto la Blade Runner, il Blade Runner femminile, maschile, replicante, c'è anche appunto la guerra dei mondi. Come non partire da quello che è stato uno dei suoni più cosmicheggianti, più lancinanti per molti versi, quel suono della fine degli anni 80, dei primi anni 90, così denso appunto di senso escapista, e anche con quella sempre quella fil rouge che unisce quasi tutta buona parte insomma della techno, quella appunto più di trottiana, quella più visionaria, verso appunto lidi che ci portano sia a mondi distopici, a scontri, a guerre, guerre acquatiche, se pensiamo a Drexia, guerre interstellari che finiranno, tra l'altro faranno finire questa prima puntata di 451 frammenti sonori di quest'anno, e anche appunto quel disegno che comunque c'è dentro buona parte appunto della techno detroitiana, che è quella visionarietà che porta quasi a una forma di scapismo che sia dentro Blade Runner che in tutte e due probabilmente, sia l'ultimo che il primo appunto, quello di Scott, che per molti versi insomma anche una guerra dei mondi che forse vogliamo rimmaginare appunto dentro le fantascienze di poi e soprattutto le fantascienze dei nostri giorni, che sono di fatto insomma per tanti aspetti realtà. Una delle cose più interessanti di questo 2049 di Blade Runner è quella anche della composizione sociale in termini anche proprio di struttura lavorativa, un accenno che però dà molto poi il senso del presente, di un futuro che è già per molti aspetti, in questo senso insomma quasi il compimento di una distopia, non che ci siano i replicanti, perlomeno insomma non ancora attestati come tali, ma il quadro sociale è veramente molto vicino a quello descritto. E, per iniziare, Claude Young, quindi Acid Wash, Conflict, appunto una conflittualità, una guerra, forse anche guerre, qua la pluralità forse ci aiuta anche a capire quelle che appunto sono dinamiche non soltanto sonore ma appunto anche immaginarie, visive, per iniziare appunto questo 451 frammenti sonori per queste guerre dei mondi, Claude Young quindi. dei suoni senz'altro più incredibilmente complessi, quella di Tortriano degli anni 90, fine anni 80, della verità, già con grandi maestri, appunto con Joan Atkinson, Kevin Saunderson e Derek May, ovviamente, insomma, i padri putatori, insomma, della faccenda techno di Trottiana, che poi è diventata tante altre cose. Insomma, magari la techno per molti sarà musica, insomma, magari anche più forte in termini di battuta, e quindi più legata magari alla rave come memoria. In realtà anche a Detroit si è battuto tanto con la techno, ma come particolarità, forse anche come DNA, ha sempre avuto questa visionarietà, questa quasi sorta di missione che, come dire, viene portata anche in parallelo rispetto, appunto, a un immaginario da guerra dei mondi, da Blade Runner in nuce, o anche così esterno e espresso, insomma, anche con una certa libertà, ad esempio da Jeff Mills, e magari anche per il prossimo 451. Potrebbe anche essere un buon viatico quello di Jeff Mills su Blade Runner, sulla sua, appunto, visione del capolavoro di Scott, e poi, appunto, dentro quello che è, insomma, il rimando, il gioco di specchi che c'è dentro, appunto, il 2049. Un gioco, tra l'altro, di specchi che c'è con una buona parte delle fantascienze, anche con i suoni che si stanno sviluppando rispetto a questo modo, se vogliamo, di intendere la fantascienza sonora, andando a trovare probabilmente uno dei momenti più interessanti di questi ultimi anni in termini di immaginazione, o se vogliamo anche proprio di visionarietà, di visività anche, cioè nel senso proprio della capacità di rendere visivo anche un suono. Beh, quello di Drive, la colonna sonora di Drive, è sicuramente uno dei, dicevo prima, dei momenti più interessanti per quanto riguarda questo percorso sonoro, che in questo caso con Cliff Martinez vede una sorta di sinfonismo passato attraverso un artificio molto molto techno, tra l'altro non è un caso che abbiamo iniziato, appunto, con uno storico della Detroit techno come Claude Leyang, col suo Acid Wash Conflict, e c'è dentro il percorso, la creazione, la composizione di Cliff Martinez, molto legato a Reft, ma anche a Villeneuve, quindi al creatore del Blade Runner 2049, una certa grana sonora che ci porta verso una techno sì, sicuramente reinventata, appunto, dentro un'idea, se vogliamo, sinfonica, per alcuni aspetti poi anche legata a questo immaginario iperrealistico decisamente spinto di, ad esempio, di Refn, e non soltanto in vari film, non soltanto in Pusher, che l'ha reso famoso, ma forse soprattutto in Drive, in Neon Demon, dove c'è veramente quasi una saturazione sia di un immaginario, se vogliamo, portato quasi a un estremo, quindi a una fuoriuscita, a un'oscenità, se vogliamo. Forse in Neon Demon c'è proprio questa, la fuoriuscita di Refn rispetto anche a un immaginario, appunto, distopico. Si va quasi oltre, si va quasi, appunto, a creare quella sorta di presente, però, appunto, terrificante, se vogliamo, con la fascinazione anche di un terrificante decisamente plastificato, se, appunto, immaginiamo Ryan Gosling, anche qua gioco di specchi con il 2049 del nuovo Blade Runner, veramente, insomma, quasi anemico, ma eroico in questo appunto essere quasi esangue nel suo rapportarsi appunto con un presente spinto all'inverosimile, forse portato appunto alle estreme conseguenze, ecco, da Refn, sia in termini cinematografici ma anche appunto di immaginario. Martinez con le musiche fa questo connubio, riesce a creare questo veramente molto, molto interessante, nel senso che può creare anche una certa filiazione, e poi per molti versi la sta già iniziando a creare, o comunque ha dei paralleli interessanti che andremo anche a sentire nei prossimi 451 frammenti sonori. E con Drive c'è questo compimento appunto di un sinfonismo plastificato, tecnoide, e con appunto questa strana inquietudine che attraversa il lavoro di Martinez, e poi queste anche aperture che invece portano a una sorta di calma assolutamente apparente, appunto come quella di Ryan Gosling in Drive, che poi si trasformerà in vera e propria allucinazione appunto del presente. Ci andiamo appunto a sentire con questi due pezzi che parlano appunto di un lusso che è oramai un deluxe, che è diventato una sorta di parodia di quello che fu. Cliff Martinez. Due pezzi di Cliff Martinez tratti da quel gioiello che Drive, sia in termini di immagine, quindi di filmico, di visione proprio nel vero senso, anche nel senso un po' goduto, una visione anche un po' perversa se vogliamo per molti aspetti, che poi appunto farà da per molti versi insomma trampolino a quello che è quasi veramente l'oscenità di Neon Demon, il film successivo di Refn, per aspettare insomma altri salti appunto, quasi una sorta di vuoto pneumatico voluto appunto iperrealista di Refn, che rende anche tramite le musiche appunto di Cliff Martinez, che tra l'altro ha musicato anche cosa filmica non ancora vista dal sottoscritto, la vita di Refn, musicata appunto da ammesso e non concesso che ci sia la visione, non ci sia soltanto l'audio di appunto la vita di Refn, che appunto a livello sonoro è affinata proprio a Cliff Martinez. Magari avremo modo insomma più avanti nei prossimi insomma appuntamenti di ascoltare anche questo momento appunto di Martinez, che con Drive appunto questa guerra interna di mondi, potremmo dire, non quindi esterna, non cosmica, forse non appunto come quella di Claude Young, più vicina appunto a un'idea fantascientifica, seppur distopica, insomma, che conosciamo, quella invece per certi versi anche quella molto conosciuta di Drive, e un iperrealismo che appunto è molto spinto anche in termini proprio di luci, di effetti appunto quasi insomma, che portano verso quasi una sorta di astrattezza in alcuni punti. Se qualcuno poi tra l'altro sente anche e riconosce qualcosa dal sottofondo, è voluto, insomma, da queste parti è sempre ben voluto anche un sottofondo del genere. E Blade Runner è un'originale di Vangelis, appunto. Quello che viene appunto colto poi da Martinez, che poteva essere uno degli autori anche di 2049 Blade Runner, e che comunque appunto sta dentro questa guerra dei mondi, vissute sia in termini escapiste ma appunto anche iperrealiste. Beh, sicuramente Chromatics, che anche loro tra l'altro partecipano con un pezzo a Drive, che però andiamo a trarre da invece un altro lavoro. Chromatics, che hanno un'estetica anche qua molto molto mutante tra senz'altro anni 80 tecnoidi o tecnopop, alcuni rimandi a quelli che sono così elettroniche anche vintage, quindi pre 80, e poi una sorta appunto di plastificazione anche qua molto molto inquietante, come molti sottofondi loro che attraversano queste strane voglie pop, che attraversano buona parte della discografia insomma di Chromatics, che andiamo appunto a trarre da Tick of Clock, questo gioco che poi forse è anche un clock che è dentro il tempo della techno, ma anche è dentro quello che è il tempo del fantastico, se vogliamo, del fantastico puntato appunto verso il fantascientifico, verso una sorta anche di deriva, se vogliamo, per molti aspetti. Anche qua forse un gioco che per molti aspetti porta al massacro, qua di nuovo probabilmente le guerre dei mondi, forse anche delle classi per alcuni aspetti dentro Neon Demon di Refn, appunto. Chromatics che andiamo a trovare dentro, insomma, questi percorsi che ci portano per molti aspetti lontano, ma mica tanto, appunto, perché come dire, appunto, il presente, se non è presente è distopico, non è, cioè, o meglio, se non è, è distopico il presente, insomma, ecco, direi che forse non cogliamo, ecco, in questo senso mi sento, insomma, di utilizzare la prima persona plurale, quello che ci sta attraversando, perlomeno in termini musicali, che vuol dire poi anche tante altre cose. We'll be right back. un drone pianistico, e tra l'altro il drone sarà anche protagonista, come tante altre volte tra l'altro, del prossimo 451 frammenti sonori, dedicato evidentemente già questa sera, insomma, con la Guerra dei Mondi. In realtà stavamo facendo un running verso appunto 2049 e quindi anche tutto il rimando musicale che già stasera ovviamente, insomma, anche palesemente immagino, sia stato insomma immediatamente captato, no? Appunto, senza particolari insomma difficoltà, e con quello che Chromatics in termini anche appunto di Night Drive, album da cui abbiamo tratto questo Tick of the Clock, da cui abbiamo tratto poi tra l'altro appunto anche questo immaginario decisamente potremmo dire anche fuori poi dall'urbano, parte da una città, ma diventa quasi futuribile in termini appunto di attraversamenti che riescono a fare Chromatics anche in maniera appunto pop, e con anche un senso insomma della comunicazione piuttosto forte, che rimanda per molti versi poi alla guerra dei mondi creata sonoricamente e in maniera tecno-magistrale, potremmo dire, da Dark Comedy, che appunto questa sera va a concludere questa effettiva guerra dei mondi, perlomeno in termini sonori, ecco, fatemi passare perlomeno questa guerra dei mondi, se in realtà poi non ce ne sono altre, insomma, va da sé che ce ne sono e come ce ne sono, e non soltanto insomma guerre palesi dichiarate, ma anche appunto molto potenziali o molto sottili, se vogliamo trovare quasi una forma ossimorica poi di guerra, ma anche in termini sociali, di scontro, conflitto, quello che insomma poi porta tutto appunto il distopico, sia dentro i suoni sia dentro quell'immaginario appunto che abbiamo evocato in termini filmici da queste parti. Vi lascio a Dark Comedy, Kenny Larkin in sostanza, geniale produttore detroitiano, con anche lui un senso iperrealistico veramente acceso dentro le sue musiche, anche quando diventa fortemente epico, si sentono le guerre dei mondi dentro i suoni, in questo caso di Dark Comedy. Vi lascio e vi rimando appunto al prossimo 451. Fate bravi, sono tornato, quindi ve lo devo dire. Thank you. Thank you.